la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:30 primi 55 secondi, grazie per l'ascolto in diretta in podcast, l'indirizzo della versione di Oscar @24.it. Oggi parliamo di Alitalia, abbastanza ovviamente, dopo il no dei sindacati, la prospettiva che si apre, sapete, i soci non ricapitalizzano, Unicredit è Intesa, Etihad non può salire oltre il 49% per le regole europee. Quindi si va a questo di fatto, a questo commissariamento secondo la legge Marzano ritoccata ai tempi di Parmalat, un commissariamento in continuità, quindi senza discontinuità aziendale. Il problema è che un commissario dovrebbe avere cassa, e la cassa, se non la mettono i soci, finisce pochissimo, stante il ritmo di spesa mensile che è intorno ai 200 qualcosa milioni, si calcola, tra costo del lavoro che dovrebbe essere più o meno non oltre il 16%, ma poi c'è il carburante per far volare gli aerei, i diritti da pagare e i servizi da pagare negli aeroporti, il nolo dei velivoli, l'ISE, tra tutto si va a una cifra di quel genere. Quindi significa che comunque bisogna dare finanza pubblica al commissario. E il commissario che cosa può fare? Può pensare a un piano con chi mette finanza pubblica, se non sono i soci, può pensare a vedere se nel mercato ci sono acquirenti, a quel punto acquirenti debito compreso, o altrimenti può pensare alla liquidazione, a quel punto si vendono gli asset, dagli slot ai velivoli, a quel che resta degli immobili, eccetera eccetera, a spezzatino. Naturalmente però il commissario pubblico apre la prospettiva immediata del diritto di parola e di proposta della politica e riapre il dibattito nei sindacati, che hanno chiesto un no, ma chiedono ovviamente che ci pensi lo Stato. Su questo c'è già un primo segnale. Orfini, il presidente del PD, ha scritto una nota per Left Wing, frenando, perché le parole sono chiare da parte del ministro Calenda, di Del Rio, di Poletti, dicono no alla rinazionalizzazione, quindi il commissario accerti, veda, ma altrimenti si va alla liquidazione e alla cessione al meglio. Orfini già frena e dice no, scusate, neanche per idea, non ci possiamo privare di questi asset, perché non pensare a un piano pubblico in cui coinvolgere i campioni pubblici nazionali, dice. Del resto chi mi ha sentito a Conte della Belva recentemente sa che Ferrovie dello Stato si prende ANAS, par di capire che per Orfini si dovrebbe prendere anche all'Italia. Non c'è al mondo una cosa di questo genere, ma che vuol dire? Si riapre il dibattito e inevitabilmente il dibattito ci porta indietro. Allora, oggi abbiamo due ospiti. Io ho ricapitolato oggi in due lunghe pagine del Messaggero quanto è lunga la storia degli errori di Alitalia. Ve la faccio breve, però è un po' necessario riavere le questioni sotto mano, perché l'Alitalia pubblica, quella che fallisce nel 2008, è un'Alitalia in cui dal 47 agli anni 70 va benissimo, per carità, 10.000 dipendenti, è un trionfo, però arrivano le prime crisi e le prime perdite negli anni 70 con il petrolio, che impazzisce, come è evidente, e a quel punto iniziano le prime ricapitalizzazioni pubbliche. C'è una presidenza, secondo me, quella di Umberto Nordio, che dal 77 all'88 risanò l'equilibrio costi-margini della compagnia, e quindi in quegli anni due soli bilanci in perdita. Però cosa succede negli anni 80 e 90? Succedono due grandi cose che cambiano l'offerta del mercato e il settore aereo internazionale. Fine agli anni 80 iniziano le privatizzazioni, British Airways, KLM. Poi negli anni 90 arriverà la grande liberalizzazione europea, quella che non tutela più le grandi compagnie, i vettori tradizionali nazionali, che prima non potevano. Air France poteva venire a Roma e Alitalia poteva andare a Parigi, ma Air France non poteva da Roma andare a Madrid perché spettava le compagnie di bandiera. Ecco, saltano queste cose, il mercato europeo diventa libero, questo fa nascere le low cost. Cosa sono le low cost? Sono una moltiplicazione di un modello che non è più portare fideraggio agli hub della grande compagnia nazionale tutelata dalla chiusura dei mercati in ciascun paese a favore della compagnia di bandiera, bensì realizzare un mucchio di collegamenti punto punto a basso costo, e quindi a bassa struttura di costo, a basso costo anche come prezzo per chi viaggia. E infatti il mercato europeo esploderà per questo. Oltre alla liberalizzazione europea, poi più avanti arriveranno anche i primi accordi di apertura degli accordi internazionali. Il traffico aereo intercontinentale è molto ancora tutelato da accordi per blocchi, ma inizierà con Open Skies all'inizio degli anni 2000 sul traffico transatlantico anche un pochino ad aprirsi. Queste due cose mutano la natura dei grandi gruppi sul mercato internazionale. Bisogna A, aggregarsi, B, in queste aggregazioni avere anche compagnia a più basso costo, perché bisogna fare un'offerta che incroci la domanda esplosiva grazie alla liberalizzazione europea di traffico punto a punto a costi più bassi e contemporaneamente essere sempre più forti nel lungo raggio dove si fanno i soldi, ma a quel punto bisogna avere dei gruppi che facciano in un ciclo decennale miliardi di utili, perché stare nel lungo raggio significa comprare velivoli sempre più aggiornati che consumano meno ma che costano tantissimo, 200-300 milioni l'uno. Ecco, questo è il grande ciclo che parte e che alcuni capiscono. Iberia, per esempio, Aznar alla fine degli anni 90 A, la privatizza, B, la marita, e quindi Iberia entrerà in uno dei tre grandi gruppi europei attuali insieme a British Airways, e ciascuna delle due si farà nel tempo una low cost, sia spagnola che britannica. Alcuni tentano di resistere, vengono tutti travolti, è il caso della compagnia svizzera, di quella austriaca, di quella belga, che finiscono tutti sotto Lufthansa. Noi non capiamo, non privatizziamo, iniziamo a perdere sempre più soldi l'Italia pubblica. Schisano prova a rimettere lì nei costi, viene silurato dalla politica a metà degli anni 90. Nel 1995 arriva un capo azienda, Domenico Ciampella, che capisce che bisogna privatizzare e bisogna sposarsi, sceglie KLM. All'epoca era un'ottima scelta, nel 1999 si fa questo accordo di fusione. Gli olandesi sono forti nel lungo raggio, l'Italia all'Italia nel breve e nel medio, quindi poche sovrapposizioni. Le due condizioni: una, la privatizzazione di Alitalia, che naturalmente non si farà; la seconda, ecco che politica e sindacati iniziano a pasticciare e dicono: beh no, però qui il problema è ci vuole il doppio hub, il Milano Malpensa, grandi promesse. E la politica dice: distribuiamo a tavolino il traffico tra Malpensa e Linate, esplode un casino. Il sindacato inizia a dire: non si deve ridimensionare Linate, idem fa la politica. A quel punto i concorrenti di Alitalia vanno a Bruxelles, vincono, salta questa cosa del doppio hub, gli olandesi si rompono le scatole e dicono: le nostre due condizioni non sono soddisfatte, paghiamo 250 milioni di penali, auguri ad Alitalia. Ecco, quattro anni dopo quei 250 milioni si riveleranno un vantaggio per gli olandesi che entrano in Air France. Se ci fossimo sposati con KLM all'epoca, saremmo insieme a KLM in Air France e secondo me avremmo evitato tutti i guai. Invece otto anni dopo l'Italia pubblica porta i libri in tribunale. Ma come ci arriva in tribunale? Perdendo un mucchio di altri soldi. Nel 2006 perde l'equivalente di 600 milioni di euro attuali, non ha più cassa. Nel 2006 allora Prodi dice: la privatizziamo. Benissimo, primo round di privatizzazioni con gara, si presentano 11 cordate, ne resta poi alla fine solo una, spariscono tedeschi e francesi, quella di Intesa Air One. Si chiude il primo round, privatizzazione fallita, ma non c'è cassa, quindi aumenti di capitale pubblici di nuovo, cambia il capo azienda ed ecco che a quel punto si riapre la privatizzazione, ma a trattativa privata, non più a gara, per essere chiari. Insomma, la cosa finirà a fallimento. Perché? Perché Air France si è rifatta viva, offre delle cose che oggi sembrerebbero stellari nel 2007, perché offre di rilevare per oltre 1 miliardo l'equity, i bond di Alitalia, vuole prendersi di 21.600 dipendenti di Alitalia 19.000, ma a quel punto il sindacato e la politica insorgono, no, agli usurpatori francesi, il sindacato per primo, e a quel punto, campagna elettorale del 2008, sarà Berlusconi a lanciare la cordata italiana, che piace a Banca Intesa, che così sistema l'Air One di Toto, e a quel punto il fallimento pubblico, libri in tribunale, cumula i 3 miliardi del fallimento pubblico, ha il vantaggio della CAI che subentra a bassissimo prezzo a rilevare solo 12.600 dipendenti dei 21.000, pensate che il sindacato aveva detto no ai 19.000 di Air France, e nel frattempo la compagnia resta schiacciata sempre sul mercato domestico medio raggio, niente lungo raggio, e hai quei 3 miliardi del fallimento e ai 7,4 miliardi calcolati da Mediobanca di perdite in tutti gli anni di Alitalia pubblica, si somma poi un altro 1 miliardo e 400 milioni di 7 anni di cassa integrazione per tutti gli esuberi che la CAI privata non si prende, 1 miliardo e 4 di minori introiti IVA, per fare un favore alla CAI privata, E insomma, un'altra barca di soldi pubblici spalmati sul contribuente. I piani però della CAI falliscono. Arriva 2014 Etihad, sembra una schema di divisione del lungo raggio internazionale, ma i soldi da investire sono sempre pochi e i velivoli sul lungo raggio sono pochissimi. Che cosa avviene poi? Nel 2016, dopo l'attentato di Bruxelles, le low cost danno, scatenano un'offensiva di prezzo sempre più elevata. Nel frattempo 2015 la SEA, la società che gestisce Fiumicino, apre alle low cost rispetto all'hub di Alitalia. Tenete conto che la SEA è anche socio di Alitalia, però ognuno fa il suo mestiere. Questo dà due randellate finali alla gestione Etihad di Alitalia, che perde 1 miliardo di euro in soli 2 anni. I privati da CAI più Etihad ne hanno perso oltre 3 miliardi dal 2009 a oggi. Ed ecco dove siamo arrivati: la fine, accordo proposto ai dipendenti di accettare la preintesa sottoscritta dai sindacati, ma i sindacati sono così poco rappresentativi che giustamente Unicredit e Intesa chiedono che siano i dipendenti a votare. I dipendenti mandano tutto a quel paese perché dicono: noi non ci riconosciamo in questo, non ci crediamo, quel piano non è credibile, significherebbe ulteriori tagli, inizia a girare la voce che tanto c'è già la trattativa con Lufthansa. Insomma, vince il no, i soci privati non ricapitalizzano e siamo al commissario. Orfini, oggi presidente del PD, parla ai ministri del governo che dicono no rinazionalizzazione e dice: no no, chi l'ha detto? Il commissario pubblico deve fare un piano rivolgendosi ai grandi campioni pubblici. Cioè, siccome FS si prende, le Ferrovie dello Stato si prende ANAS, perché non si può immaginare che si prenda anche all'Italia? Questo non c'è scritto, ma è sottinteso. Non esiste al mondo una cosa simile, ma vedrete che la politica, con tutti gli errori che ha commesso su Alitalia pubblica, su non dargli mai un piano né di privatizzazione né di fusione con un socio straniero, su Malpensa e Linate, e sul no a KLM, sul no ad Air France, i sindacati sempre d'accordo, eccetera, eccetera, vedrete che siccome la campagna elettorale si avvicina, si riscatenerà la questione. A questo punto, fine del riassunto, gli errori, come vedete, sono capitali, ma la domanda è: cosa ci si aspetta che faccia il signor commissario? Sarà una nuova pagina che si apre di una Alitalia pubblica, oppure c'è qualche soggetto, anche se non sembra, che si fa avanti per ricapitalizzarla e a quel punto ridurla ancora di più al rango di piccola compagnia regionale? Ecco, per parlare di tutto questo abbiamo due ospiti: Andrea Giuricin, che insegna economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, scrive per l'Istituto Bruno Leoni. Grazie di essere con noi, Andrea. Buon pomeriggio. Gaetano Intrieri, ex manager di compagnie aeree, quindi esperto del settore, che ringrazio di essere con noi, Intrieri. Grazie, buongiorno. Io lei ho ascoltato il suo recente intervento a un convegno dei sindacati di base, quelli che hanno chiesto di votare no. Il convegno era sulla rinazionalizzazione. Per questo mi interessa sapere in primis la sua opinione. Dal suo punto di vista, il commissario pubblico che viene nominato, che cosa realmente può, o meglio, secondo lei, dovrebbe fare? Sì, intanto io al momento, certamente la sua analisi, come sempre, molto lucida, lei deduce che si andrà certamente al commissariamento ed è molto probabile. Aspetterei comunque l'assemblea degli azionisti, perché comunque l'ultima parola è, come lei sa bene, ah no, devono chiederlo loro, devono dire non ricapitalizzare. Il non ricapitalizzare vuol dire chiaramente dichiarare uno stato di default e quindi di insolvenza, che in Alitalia io già in un'analisi che feci per Radio News a ottobre dell'anno scorso era evidente, insomma, l'avevo ben scritta, perché la posizione finanziaria netta e i debiti erano assolutamente fuori controllo, per cui è una cosa venuta fuori. Però adesso, insomma, ipotizziamo, magari, che Unicredit e Intesa siano ferme perché hanno parlato gli amministratori delegati e che arrivi un commissario. E a quel punto il commissario dà retta a Orfini oppure fa qualcosa che non c'è ancora noto? Oscar, credo che il commissariamento sia, mi lasci dire questa parola, la mazzata finale, perché nel mondo degli aeroplani una compagnia commissariata, intanto, come lei ben può immaginare, perderà ulteriori passeggeri, perché chi si fa un biglietto ha paura poi di rimanere a terra. E poi la credibilità della compagnia, che passa in 3 anni da 3 posizioni in insolvenza, chiaramente nell'ambito internazionale si riduce al vicino. Io lavoro per compagnie non italiane e quindi spesso mi tocca parlare di Alitalia, e le posso garantire che al momento nel mondo la considerazione di Alisua d'Italia è molto bassa, chiaramente. È molto bassa. Quindi lei direbbe, forse sarebbe nello stesso interesse degli azionisti ricapitalizzare un po', magari non i 900 milioni liquidi e 2 miliardi in totale di conversione del debito che dicevano prima, ma almeno ci rimetterebbero meno, è questo? Oscar, io credo che sarebbe nell'interesse degli azionisti intanto capire esattamente perché si sono trovati in questa situazione, cioè capire quali sono le reali cause, cioè fare un'analisi seria delle cause vere di questo dissesto, perché vede, io lei si riferiva a quel convegno dove sono stato invitato e ho ben volentieri partecipato. Quello che mi sta a cuore dire è che si è dato ai dipendenti all'Italia delle responsabilità assurde e che, mi lasci dire, in un paese democratico non possono essere accettabili. Intanto i dipendenti non sono la causa. No, no, ma questo non c'è dubbio. I piani che non reggono sono dei manager e degli azionisti, questo non c'è dubbio. E poi si è fatti votare a un referendum su un piano che francamente un piano non era, perché sono sbagliati anche i conti, proprio esattamente i numeri sono sbagliati. Si parla di 4 banks in una compagnia aerea come l'Italia, quando Ryanair per performare le 4 banks ci ha messo anni, perché presuppone un meccanismo di processo interno a tale livello di efficienza che oggi all'Italia non è assolutamente pronta. E questo non perché dentro all'Italia, mi creda, non ci siano professionalità, mi creda, guardi. No, ma su questo osservo da decenni e sono il primo a dirlo. Poi un altro conto sono i piani dei manager. Mi creda, 20 anni fa non gli ingegneri, i periti aeronautici dell'Italia erano i migliori al mondo. Quando venivano in Atlas, gli ingegneri Boeing. Mi creda, non ho dubbi su questo, però il problema è capire che cosa può avvenire adesso. Lei dice innanzitutto i soci capiscano meglio e ci pensino due volte prima di dire al governo nomina il commissario. Se io fossi socio di Alitalia e vedo che ci sono a bilancio 630 milioni di costi non relativi alla gestione caratteristica, e qualche domanda me la dovrei pur fare. Ma questo anche come Studio Boleoni, noi sui noli eccetera eccetera ci siamo per così dire molte volte interrogati, però non eravamo ammessi poi a delle risposte eccetera. Allora un minuto adesso di pausa sul traffico, ricominciamo con la stessa domanda da Andrea Giuricin. Traffico. La versione di Oscar. Eccoci qua, ritorniamo in diretta all'Italia. Arriva uno al commissario Gaetano Trieri, ci ha detto: ma forse ai soci non converrebbe, perché chiederlo significa la mazzata definitiva. Andrea Giuricin che dice: ci fidiamo di quello che hanno detto le banche fino a questo momento, arriva il commissario, e poi ci fidiamo dei membri del governo che hanno detto non si nazionalizza, oppure il commissario a quel punto la politica lo porta a fare quello che dice Orfini. Lei che impressione ha, Giuricin? Io ho molta paura che il governo non sappia resistere alle pressioni. Questo è il più grande rischio per il contribuente italiano. Io ricordo sempre il famoso prestito ponte, la tua ricostruzione giustamente è stata perfetta, ma ricordo il prestito ponte fatto ad aprile del 2008 ad Alitalia, 400 milioni di euro, che doveva traghettare questa compagnia in funzione delle soluzioni alternative, che poi era l'accordato, il piano Felice, che fu perso tra l'aprile e l'agosto del 2008, furono persi 400 milioni di euro da parte dei contribuenti italiani. Oltretutto l'Italia venne anche condannata, perché quello era un aiuto di Stato. Quindi oltre al danno alla beffa, cioè non solo, era anche illegale, oltre a aver buttato, era già avvenuto anche per la ricapitalizzazione da 1,3 miliardi di euro a costi di oggi, fatta da Prodi nel 96, più volte è avvenuta la condanna. Esatto. Cioè, purtroppo la storia si ripete sempre, e mi sembra che con Alitalia ci arrivi sempre sotto delle elezioni sia divertente per i politici. Ma secondo te il commissario può trovare qualcuno? Qui si dice Lufthansa. Io, le fonti mie di Lufthansa dicono: guardate, nel 2007 ci siamo fatti vivi al tavolo della privatizzazione e ci siamo ritirati perché non ci siamo fidati, e infatti è andata come è andata. Poi ci hanno detto: 3 anni e mezzo fa siamo stati bruciati da SEA su Malpensa. Francamente, vediamo cosa succede, ma non ci facciamo vivi. Io non so, però magari è solo precauzione, prudenza. E diciamo che il mercato italiano in generale non è mai troppo attrattivo per gli investimenti diretti esteri, questo forse è un altro di quei casi. Cioè, Lufthansa avrebbe magari anche l'interesse di acquistare una parte del mercato italiano, 10-12 milioni di passeggeri, un po' come è successo con Sabena, diventata poi Brussels Airlines, o su Swiss Air, diventata Swiss, dove hanno acquistato di fatto, dopo il fallimento delle compagnie, l'hub di Zurigo e quello di Bruxelles. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i 22 milioni di passeggeri all'Italia 2016 significa meno di un quinto del totale del mercato dei passeggeri italiano, confermi? Assolutamente, circa il 18%, esatto. Ryanair fa quasi 10 milioni di passeggeri. Quindi nel frattempo l'esplosione del mercato italiano che è avvenuta negli ultimi 10 anni avviene grazie al fatto che c'è un'offerta altra, prima di dire che la colpa delle low cost, dei soldi che danno gli aeroporti e così via. Insomma, più di 4 italiani su 5 volano con altri, questa è la dimensione. Esattamente, esattamente. E poi vorrei anche ricordare che si dice spesso che il mercato italiano è quello più invaso dalle low cost, perché c'è una quota di mercato più o meno del 47%, ma io dico sempre, è mai possibile che Aer Lingus, dove è nata Ryanair, quindi il mercato irlandese, sia il gioiellino del gruppo IAG che faccia margini, cioè British impressionanti, Iberia. Esatto, di British Iberia e Vueling, faccia dei margini pazzeschi, dove Ryanair è estremamente forte, o dove British Airways faccia anche lei grandissimi margini con le low cost al 55%, Iberia faccia con le low cost al 50%, quindi con un'invasione, tra virgolette, dal mio punto di vista salutare, delle low cost sul mercato. E questa è la grande domanda. Intrieri, però parliamoci chiaro, per chi conosce il settore del trasporto aereo, immaginare, ipotizziamo che politica e sindacati per la 100ª volta dicono l'italianità, abbiamo bisogno del segmento elevato del turismo portato da una compagnia italiana, le low ci portano turisti, sì, tantissimi, ma a basso portafoglio, immaginiamo tutto questo, però bisogna essere chiari, ci vogliono miliardi e miliardi e miliardi da pompare se uno immagina che all'Italia voglia ancora, senza entrare in un grande gruppo a controllo straniero, fare lungo raggio, perché significa un tale impegno di flotta con quello che costano gli aerei. Come si può immaginare di percorrere obiettivi? Giustamente il professore faceva notare alcune cose molto interessanti. Parlavate del gruppo IAG, sì. Ecco, vorrei far notare che a capo di quel gruppo, oggi CEO di British Airways, c'è un signore che si chiama Alex Cruz. È uno di quelli che l'ha cambiato molto il mercato aereo. È uno dei migliori manager del settore. Sì. Quando parlate di Ryanair, che poi tutti nominano giustamente anche quel genio di Michael O'Leary, sì, si dimenticano che anziano O'Leary c'è un signore che si chiama Michael Cowley, che è veramente un super stratega ed è un grandissimo uomo di controllo di gestione. Ryanair ha speso miliardi per implementare modelli di controllo ad altissima efficienza e precisione, per cui non è che questi risultati non c'è dubbio, ma a maggior ragione ce lo vediamo adesso lo Stato italiano che ci propone di essere lui a fare questo. Ma oggi mettere soldi in Alitalia, per chiunque, bisogna dirlo, questo è un po' un'operazione azzardata, per non dire da incoscienti, questo modo di gestire, perché le stavo dicendo prima, se lei spende 600 milioni, oltre 600 milioni all'anno solo per i leasing, esatto, con una flotta, esatto, di qualche aereo in più di 100, e c'è qualcosa che non funziona. No, molto che non funziona, ma queste erano le obiezioni che in questi anni sono rimaste ascoltate. Lo Stato si deve porre, o lo Stato o gli azionisti privati, oggi su questa Alitalia, si chiami Finmeccanica, si chiami Eni, si chiami quello che vuole lei, sarebbe per tutti un suicidio mettere le socie. Allora, intanto fermiamoci qua, che per oggi va bene, perché siamo tutti d'accordo, magari partendo da opinioni diverse. Non lo so cosa ci aspetta nei prossimi giorni, ma credo che ne parleremo per settimane, anzi per mesi. Sentiamo qualche ascoltatore, cominciando da Daniele che ci chiama da Napoli. Daniele, prego. Buonasera. Buonasera. Volevo complimentarmi per la trasmissione, perché è la prima volta che non sento buttare, diciamo, come se i dipendenti fossero il problema dell'Alitalia. Ma ci mancherebbe altro. Vorrei solo dire una cosa, perché se ne stanno facendo parecchie di trasmissioni e nessuno dice che gli stipendi ormai sono bloccati dalla lira. No, ma è tutto per noi. Io ripeto sempre, nell'analisi che noi abbiamo, la struttura di costo per passeggero chilometro offerto è quella di EasyJet per Alitalia, cioè stiamo parlando di un terzo in meno e un quarto in meno rispetto a Lufthansa Air France. Questi sono dati di fatto. Il problema è che, se vuole, lo ripeto tutti i giorni ai nostri ascoltatori. Ma chi dice il contrario ignora i numeri. Invece danno altri numeri e altre cose, dicendo che anche il no, se lo vede, è strutturato un attimino per categorie e le cose sono un attimino più complesse rispetto a quello di te. Personale di volo che volando si sente più garantito, perché dice anche perché hanno fatto dei sacrifici anche loro enormi. No, enormi, non c'è quindi dubbio, si trovano praticamente in linea con il mercato, per cui però oltre a questo riconoscimento, lei che pensa adesso? volevo precisare che molti di noi si sono costituiti parte civile, perché ci sta un procedimento penale che va per il secondo grado, dove sono stati condannati in primo grado alcuni amministratori dell'Alitalia, ed anche questo è in sordina. Io dico solo che ci sono dei problemi grossi strutturali che i politici hanno creato e i politici devono risolvere. Però lei sa che i politici devono risolvere significa che pagano i contribuenti e hanno pagato molto per via degli errori dei politici, li ho ricordati a Iosa. Quindi su questo vedremo. Può essere che lei abbia ragione, che la politica ripensi di fare questa roba. Io o mi convincono con un piano, oppure significa che paga il contribuente, quindi inizio a gridare. Però vediamo, io non ce l'ho con i dipendenti, ci mancherebbe altro, i piani non li hanno fatti loro. Stefano da Roma, ma deve essere brevissimo. Stefano. Brevissimo, sì, buonasera. Capita troppo spesso che i manager incompetenti ed arroganti non paghino per i propri errori. Capita troppo spesso e questo è un caso lampante, è così come l'ipocrisia di portare i dipendenti a votare un piano che era evidentemente inadeguato. Guardi, io l'ho scritto fin dal primo giorno sul Messaggero, questo referendum nasce perché il problema è la rappresentanza e a quel punto la risposta sarà in linea, cioè sarà no a un piano che non viene spiegato, capito e che non sta in piedi. Detto questo, il governo Renzi poteva battersi in Europa facendo il liberalizzatore perché si sforasse il tetto, il limite al 49% per azionisti non europei. Sarebbe stato un bene per noi e forse veniva più finanza da Etihad. Purtroppo non lo abbiamo fatto, ma continueremo a occuparci dell'Italia, continuate su Radio 24, grazie agli ospiti, appuntamento con Alessandro Mino domani alle 8:20 su Attenti Radio 2.